fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non voglio fare assolutamente una trasmissione scientifica questa mattina, anche perché non ho assolutamente competenza per farlo, ma vorrei toccare nel profondo il vostro immaginario in uno dei punti probabilmente meno solleticati dall'attualità. Io ho visto ieri una pagina sul quotidiano La Stampa, ma se ne parlava da vario tempo e in varie maniere di questo problema, ovvero di questo parto dell'immaginario, che è la clonazione. Ieri è uscito un caso di un ricercatore americano, non ho capito se un ginecologo, un andrologo, comunque una persona che si occupa di parti di anatomia, di parti basse della stirpe umana, di origine cipriota, Panayiotis Zavos, che compirà un'operazione che ha del miracoloso e del titanico. Clonerà una bambina morta innestando le sue cellule sanguigne in un uovo di mucca che ospiterà queste cellule e ridarà ai genitori la speranza di riabbracciare la bambina. Ora, fra il dire e il fare, naturalmente, esiste una lunga distanza. Siamo in attesa di vedere cosa succederà di questa ennesima anticipazione, misteriosa rivelazione sulla possibilità dell'uomo di riprodurre altri se stessi. Io che per anni mi sono appassionato con esiti nefasti alla leggenda del golem, alla prima anticipazione del sogno dell'uomo di riprodurre un altro essere umano, so che terminano sempre in maniera disastrosa questi tentativi innaturali di imitare l'opera divina, ma fiduciosi nella scienza pensiamo che in questo misterioso laboratorio, non si sa bene dove dislocato, in un deserto lontano, in un paese del Medio Oriente, in cima a una montagna, qualcuno stia veramente ficcando parti di essere umano dentro parti di mucca per tirare fuori finalmente l'homunculus, il sogno di ogni alchimista, il sogno di ogni necromante, un altro essere umano. Beh, sia vero o non sia vero, prima o poi qualcosa del genere accadrà, non esiste dubbio, lo stanno facendo con gli animali, prima o poi arriveranno a farla con la più evoluta delle specie animali, che è quella a cui apparteniamo. Quindi la domanda questa mattina è: voi cosa fareste se aveste qui a disposizione la possibilità per clonare qualcosa o qualcuno? Chi vorreste accanto a voi nuovamente vivo? Il corpo è per tutti noi il centro della nostra identità, il supporto su cui è costruita la nostra storia individuale. La notizia di questi giorni è che qualcuno stia in qualche modo preparando gli umani alla produzione in serie di copie di se stessi. Copie di se stessi. Ma perché dovremmo duplicare un determinato essere umano? Il primo pensiero va all'idea che si potrebbero creare cloni umani da cui attingere per la propria scorta personale di organi di ricambio, da trapiantare nel proprio corpo malato. È un'idea che atterrisce tutti noi. Ma non è questo di cui vogliamo parlare oggi. Tanto più che non sembra essere necessario, dal momento che si sta imparando a produrre in provetta organi e tessuti di animali senza produrre l'animale intero e senza partire da cellule embrionali. E in qualche modo cominciamo ad abituarci all'idea che molti dei nostri tessuti possano essere coltivati come fossero fagiolini o patate. (800) 24 00 24. Esistono alcuni tasselli di certezza con prova scientifica che ci stiamo avvicinando verso una ardita manipolazione di quello che è sempre stato considerato un progetto non destinato alla manipolazione degli esseri umani. Quindi nel nostro immaginario, immaginario fortemente contaminato da letteratura, da fantascienza, da informazione scientifica superficiale, esiste già allucinata questa idea che sia possibile clonare un essere umano. 800240024, ditemi con certezza, poi vi dirò qual è il borsino dei desiderata clonatori del pubblico, perlomeno di Facebook. Chi vorreste però voi clonare se aveste possibilità di farlo? Oggi invece vogliamo considerare la possibilità di clonare interi esseri umani, a prescindere dai trapianti di organi. Pensateci, ognuno di voi potrebbe all'improvviso creare un gemello di se stesso. Così, tanto per avere un altro sé. Voi lo fareste? E perché? Minaccerebbe la vostra cara vecchia identità fisica e corporea? E poi pensiamo all'ipotesi di far rinascere persone con lo stesso identico DNA di un nostro parente scomparso, di un marito, di un figlio. Sapresti accettarlo? O magari un clone di un personaggio famoso, un clone di Gandhi o di Einstein. Come lo vedereste? Quello di Brad Pitt e di Marilyn Monroe, o di Maradona, ma anche di Hitler o di Simona Ventura. Li vorreste? No? Chi clonereste voi? Allora, chi clonereste voi? Devo dire che già da adesso esiste una fitta e immediata risposta dalle persone che stanno scrivendo su Facebook con l'idea che, se fosse possibile, tutti avrebbero comunque qualcuno a disposizione per clonare. Giulia clonerebbe Jimmy Page, Marino appoggerebbe anche lui questa scelta, qualcuno riclonerebbe la pecora Dolly, non si sa perché, Claudio vorrebbe clonare la sua maestra di ballo, altri clonerebbero personaggi importanti della storia come Einstein, Napoleone, Marilyn Monroe, altri i propri genitori. Ma esiste, guardate, anche una miserrima possibilità di clonare non soltanto persone eccelse o individui eccelsi. La maniera di clonare un altro essere umano, perlomeno nel sogno allucinatorio della fantascienza, non sempre è istigata a nobili intenti. Non sempre l'uomo, se avesse a disposizione la formula della riproducibilità di un altro essere umano, lo farebbe per migliorare naturalmente la specie umana. Il trucco di concedere ai nostri sottoposti una apparente compartecipazione azionaria ha dato i suoi frutti. Quello che veramente ci manca è il poterli umiliare. Ricordate i bei tempi quando strisciavano i nostri piedi? Ce n'era uno particolarmente servile. Adesso non mi sovviene il nome. Ah, ecco, Fantocci, ecco come si chiamava. Lui non può essere cambiato. Ma che fine ha fatto? Veramente credo sia morto. Oh, che notizia terribile. Questo significa che non potremo più approfittare di lui. Forse una soluzione ci sarebbe. Davvero? Pensate che per far risorgere il ragionier Fantozzi dopo una serie di sue avventure cinematografiche, a un certo punto si pensò di clonarlo, perché Fantozzi era morto, perché i suoi capi non avevano più naturalmente l'oggetto umile e sottomesso della loro affermazione di potere illimitato, e quindi anche Fantozzi, per risorgere e per dare modo al potere più vigliacco e più immotivato di avere un oggetto di sopraffazione, anche Fantozzi fu clonato. Signora Fantocci. Fantozzi. Le piacerebbe riabbracciare suo marito? Quello che le sto proponendo non è una scelta, ma diciamo un affare che non può rifiutare. Certo, per ottenere un clone perfetto avrò bisogno di materiale organico. Un clone? Avrò bisogno di una piccola quantità, che so, un'unghia, una ciglia, un capello. Pochi giorni dopo erano pronti per il più clamoroso degli esperimenti tentati dall'uomo: la clonazione di un ragioniere. Così come Venere venne fuori da una conchiglia, anche il ragionier Fantozzi rinacque da un mitile marino. Fantozzi, naturalmente, a differenza di Venere, che nasce da una meravigliosa conchiglia, nasce da una cozza, per dimostrare che in mano a un essere umano questa possibilità smisurata di replicare se stesso potrebbe anche produrre esiti disastrosi, fastidiosi, noiosi, tristi, non sempre meravigliosi, non sempre ispirati al titanico sogno di scienziati folli. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Lei chi vorrebbe clonare? Io vorrei clonare, mi allargo, due persone. Due addirittura. Sì, io sono stato adottato da due persone meravigliose che, come mi hanno adottato, dopo un anno sono cadute in disgrazia, per cui abbiamo fatto 16 anni di vera miseria. Ma di vera miseria, ma non mancavano mai loro le parole, gli insegnamenti. Dopodiché sono morti e io me la sono cavata da solo. E ho migliorato di molto la mia vita, fortunatamente, per una serie di circostanze. Adesso ho il rimpianto di non essermi potuto sdebitare. Quindi lei, adesso che è benestante, vorrebbe farli rivivere, ridare a loro quella possibilità di vita serena e sì, dignitosa che... quello che mi raccontavano, che amavano i cavalli, che facevano la bella vita e che poi sono caduti in disgrazia, per cui vorrei essere loro riconoscente facendoli star bene, in poche parole. E questo mi è un pensiero che mi segue molto spesso quando si parla di reincarnazione, alla quale non credo, di fede o di resurrezione o di clonazione come questa mattina. È il suo, è un progetto ispirato comunque da un gesto d'amore e di riconoscenza. Rossella, velocemente, che siamo in chiusura. Buongiorno, io vorrei clonare Gesù di Nazareth. Ma lei è credente? No. E allora perché vorrebbe clonare Gesù? Per vedere come si comporterebbero tutte queste persone. Se lei fosse credente saprebbe che la risurrezione della carne rende impossibile il restare di rimasugli umani di qualcuno che è risorto anche nella carne. Questo è il principio fondamentale di ogni credente, quindi lei, non essendo credente, applichi altrove le sue lecite volontà di clonazione. Diamo la linea alle informazioni per la borsa tra un istante. 800 24 00 24, chi vorreste clonare? Anche le desideri impossibili sono leciti ad essere espressi, ma naturalmente è altrettanto lecito che noi dimostriamo l'impossibilità di certi desideri. 800 24 00 24, sto guardando divertito quelle che sono le pretese di clonazione dei nostri ascoltatori che scrivono su Facebook, e vedo che tutti sono mirati a fare una sorta di gara nel rappresentare il personaggio illustre più politicamente corretto che loro vorrebbero clonare, da Leonardo da Vinci, da Gandhi, dai grandi della storia, da coloro che hanno lasciato una traccia indelebile nel cammino del loro percorso vitale, non riflettendo sul fatto che un Leonardo da Vinci oggi probabilmente sarebbe un disadattato, come lo sarebbe un Galileo, come lo sarebbero altri personaggi. Il valore di una persona è data anche da alcune circostanze storiche, ambientali, da alcune occasioni, da alcune casualità, dal fatto di essere nato in un certo posto, in un certo momento. Non credo, ma questa è una mia teoria, opinabile come opinabile ogni velleità di clonazione dell'essere umano, ogni meraviglia e ogni infamia che ha attraversato la storia degli uomini è determinata da una serie infinita di circostanze, anche piccole, anche minime. Quindi riprodurre il genio in epoche e in circostanze diverse mi sembra abbastanza difficile. Ma devo dire che in realtà esistono anche pretestuosità di riproduzione di esseri malvagi o di esseri che sono passati alla storia proprio come simbolo della parte più oscura di un'epoca. C'è un film interessante del 78 interpretato da Laurence Olivier, che a sua volta è stato tratto da un noto romanzo, che parla della storia di un cacciatore di criminali nazisti, che dovrebbe essere Simon Wiesenthal probabilmente, che è alla ricerca del dottor Mengele, il grande scienziato nazista, l'orrore dei campi di concentramento, e si accorge che a un certo punto è vivo e vegeto, e anzi sta compiendo un'operazione di clonazione folle, riuscito ad ottenere il parte di residui organici di Adolf Hitler, ha innestato appunto attraverso procedimenti, adesso non ricordo bene come fossero interpretati in un'epoca in cui non si parlava con tanta disinvoltura di clonazione umana, in una serie di ragazzini sparsi in giro per il mondo che sono dei perfetti cloni di Hitler, e nel suo disegno avrebbe voluto far ricrescere una sorta di stirpe di Führer. Beh, naturalmente finirà male per tutti. Se ti dimostro che io ti conosco meglio di qualunque altro al mondo, anche meglio della tua stessa madre, tu mi ascolterai. Tu sei un ragazzo molto sveglio, solo che a scuola non vai bene, e questo perché sei troppo sveglio, troppo occupato a riflettere sui tuoi pensieri. Ma tu sei molto più intelligente dei tuoi insegnanti. I miei insegnanti sono delle nullità. Tu vuoi diventare il più grande fotografo del mondo, non è così? Ti sei mai sentito superiore a quelli intorno a te, come un principe tra i bifolchi? Sì, mi sento diverso, sento di essere superiore. Tu sei infinitamente diverso, infinitamente superiore. Il film ha una sua chiave profonda che riporta sempre all'antica e immarcescibile leggenda del golem. Gli uomini non possono mai fare questo passo ulteriore di riprodurre se stessi. Perché? Perché il frutto della loro vanagloria, del loro gesto titanico, si rivolterà contro di loro. Quindi, come il golem della aurea leggenda praghese franerà e distruggerà Rabbi Lev, che ha osato fare questa operazione scellerata. La stessa maniera il piccolo clone di Hitler, questo ragazzino dagli occhi azzurri e dallo sguardo assassino, farà morire il dottor Mengele facendolo sbranare dai suoi cani. Tu sei nato dal sangue più nobile del mondo. Tu hai in te tutto ciò che occorre per realizzare delle ambizioni centinaia di migliaia di volte più grandi di quelle che sogni attualmente. E le realizzerai, Bobby. Te l'assicuro. Tu sei il duplicato vivente del più grande uomo della storia. Adolf Hitler. Tutto il tuo potenziale di volontà esploderà quando arriverà il momento. Quando sarai cresciuto. Quando sentirai nascere dentro di te l'impulso di salvare i tuoi simili ariani dalla morte e dall'estinzione, allora gioirai di questo tuo retaggio! I tuoi genitori non hanno nessuna importanza, sono stati scelti per te! Ora che hanno svolto il loro compito, loro debbono scomparire dalla tua vita! E invece il piccolo Hitler clonato farà scomparire il dottor Mengele per dimostrare che non si può andare oltre. Per Daniela, molto più semplicemente, la clonazione significherebbe riclonare se stessa e vorrebbe rinascere con i fianchi più stretti, senza capillari, che non ha tempo di andarsi a togliere, e vorrebbe essere più perfetta fisicamente e meno politicamente corretta. Quindi è chiaro come vorrebbe rinascere Daniela, ma può farlo tranquillamente, senza necessariamente ricorrere alla clonazione. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Una semplice riflessione, io pensavo che poiché l'individuo è composto da un corpo ma anche da uno spirito e da un'anima, per chi ci crede, mi chiedo come la scienza possa arrivare a duplicare quella. Beh, guardi, io penso che la scienza al momento non sia nemmeno in grado di duplicare il corpo, almeno in maniera così precisa come a volte annunciano queste improvvise dichiarazioni di scienziati sempre lontanissimi, sempre in luoghi irraggiungibili. La riproduzione della coscienza in un individuo mi sembra sia un'operazione ancora più difficile. Esiste anche chi si stia applicando in questo, chi sta cercando comunque di riprodurre attraverso supporti sintetici, digitali, l'esperienza umana, che è il racconto di una vita, le immagini di una vita, gli scritti di una vita. Ma noi sappiamo che la nostra coscienza è qualcosa di molto più complesso. Ma questa mattina non è una trasmissione sul filo della realtà scientifica, ma è sul filo del paradosso. Mi piace capire e vedere fino a che punto arriva la nostra immaginazione, ammesso che questa sia una possibilità concreta. Enrico, buongiorno. Enrico. Ah, buongiorno, sì, ci sono. Lei chi vorrebbe clonare invece? Io vorrei tanto clonare il colonnello Mandrake del Dottor Stranamore, un personaggio fantastico, Peter Sellers in generale probabilmente andrebbe clonato, però è un personaggio che ai giorni nostri secondo me sarebbe veramente molto utile, non so se ti ricordi, ti posso dare del tu? Sì, sì. Quella scena in cui costringe il colonnello americano che lo stava trascinando fuori dalla base a sparare contro il distributore della Coca-Cola, spiegandogli che in realtà la massima utilità dell'uso di un mitra sarebbe stata quella e non altro. Quindi lei è così a corto di personaggi ideali, contro ogni convenzione, anticonformisti in assoluto, che andrebbe a recuperare un vecchio filmettino d'epoca per avere questo brivido. Adesso filmettino non me lo chiami però, per cortesia. Vabbè, che filmone come vuole, sì. Comunque è una rappresentazione molto datata. Sì, comunque sì, sono d'accordo con te, sì, sono abbastanza a corto. Va bene, quindi la clonazione per lei è una speranza di ritrovare dei modelli che vadano contro le muffe e pedissequee regole comuni. Va bene, ma grazie. Sicuramente anche, sì, d'accordo. È molto chiaro. Però adesso vorrei dare invece una svolta scientifica a questo programma, perlomeno per mostrare quello che è per ora il limite massimo applicabile a questo termine, che è il termine clonazione. Professor Cesare Galli, buongiorno. Buongiorno. Allora, il professor Cesare Galli è un veterinario, docente di biotecnologie nella riproduzione presso il Dipartimento Clinico Veterinario dell'Università di Bologna, spero di aver detto giusto. E lei, professore, ci può dire che il limite finora raggiungibile dalla scienza, perlomeno certificata, nel campo della clonazione è quello di poterla applicare ad animali? Sì, diciamo che sono circa 18 le specie di mammiferi che sono state a tutt'oggi clonate. La caratteristica comune di questi esperimenti è che l'efficienza è molto bassa, per cui degli embrioni che vengono ottenuti in laboratorio in modo abbastanza facile, poi di fatto che arrivano a termine con la nascita di animali vivi e normali è nell'ordine dall'1 al 5%. Lei però ci è riuscito, professore? Sì, infatti. Praticamente noi abbiamo clonato il nostro laboratorio a Cremona sia bovini che maiali che equini. Però la caratteristica, le ripeto, è questa. Noi con gli animali abbiamo a disposizione tanto materiale con cui lavorare e delle tecnologie già ben collaudate per questo tipo di attività. Il discorso diventa invece diverso quando si parla di esseri umani, dove per quello che mi che sento sono solo grandi affermazioni, ma che non hanno poi un riscontro scientifico obiettivo. Questi personaggi le sparano grosse. Già i raeliani avevano clonato, dicevano di aver clonato degli esseri umani, però poi nessuno ha visto niente. Per cui... sì, io non la voglio costringere a parlare di discipline che non le appartengono, ma visto dal punto di vista di un veterinario, per quello che è la sua esperienza sul campo, trova che la difficoltà ancora di agire, lasciamo perdere ogni pregiudizio di tipo etico, ma la difficoltà di agire su materiale organico umano ancora di abbastanza problemi per... con tanta sicurezza dire che sto tentando di clonare la bambina morta? Sicuramente non c'è. Prima di poter fare queste cose sugli umani andrebbero fatte sui primati, quindi sulle scimmie, dove ci sono sicuramente meno limiti di natura etica e magari una tecnologia simile disponibile. Ma i numeri intendo gli ovuli che servono, perché poi per clonare, se uno pensa alla clonazione, anche sentivo il programma, come se fosse una fotocopia, diciamo che noi probabilmente non sopravviveremo ai nostri cloni, perché poi il clone cresce, nasce, cresce come qualsiasi altro individuo normale, cioè è un individuo assolutamente normale. Per cui il discorso degli organi è tutta fantascienza. Quindi non è che esce come nei film dal globo fumoso l'essere già adulto e vestito, no, addirittura. No, esce come un bambino neonato che ha bisogno, per diventare adulto, ha bisogno di 18 anni. Per cui se ho bisogno di un cuore oggi, devo aspettare 18 anni per avere quel cuore che eventualmente sarebbe mio. Ne sono solo, a me fanno sorridere queste, è fantascienza quella di cui si parla, non c'è nessuna evidenza scientifica che questo sia fattibile, ma non ha nemmeno senso per i motivi che le dicevo. Senta, professore, una cosa, io ho letto su dei ritagli di giornale che al tempo in cui lei lavorava alla clonazione del suo toro, delle persone la chiamavano pensando che fosse in grado magari di clonare i loro parenti morti. Certo. Come rispondeva a queste persone? Rispondevo cercando, purtroppo... questo non è vero solo per le persone, ma anche alcuni hanno degli animali a cui sono molto affezionati, quindi diciamo l'episodio si ripete. Quando uno perde qualcuno o un animale a cui è molto affezionato, si trova in uno stato diverso, e penso che se qualcuno c'è stato probabilmente è in grado di percepirlo, ma non tutti lo sono. Quindi ogni speranza, anche se folle e vana, è un appiglio per elaborare un lutto, quindi si telefona al veterinario per dire puoi clonare un essere umano. Hanno bisogno di conforto, e il pensare a questa ipotesi probabilmente li fa star meglio, almeno nel caso degli animali sicuramente li fa star meglio, perché sanno che hanno depositato del materiale biologico, e poi dopo da lì, da avere il materiale biologico, quindi che per dire un pelo, un tessuto o una cellula, alla clonazione c'è tutto un altro passo. Oggi materiale biologico è stoccato negli ospedali per tantissimi motivi, da ultimo il trapianto di midollo osseo dei bambini neonati, quindi le cellule per esempio del cordone ombelicale sono stoccate, quello è tutto materiale che potrebbe essere utilizzato un domani per la clonazione, però da qui a clonare ce ne passa. Insomma. Quindi non basta tenere dei peli di un cagnolino morto, pensare di poterlo far rivivere. Grazie professor Cesare Galli. 800240024, ci ha appena detto il professor Cesare Galli, che ha clonato tori e animali vari, che in realtà è inutile telefonare a un veterinario per chiedere la clonazione sia di un essere umano parente, amico o congiunto scomparso, ma tantomeno del proprio animale del cuore. È un'operazione complessa, un'operazione non sempre ad esito felice, soprattutto che richiede tempi e materiali non certo assimilabili al ciuffo di capelli che la signora Pina Fantozzi teneva nel medaglione da vedova che portava al collo, che gli ha permesso di far riapparire in pochi istanti il marito con i mutandoni ascellari, con la canottiera, con le scarpe, con i lacci, con il cappello in testa. Quella è fantascienza, ma a noi piace comunque immaginare, sognare, pensare come potrebbe essere se. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Per lei come potrebbe essere se fosse possibile? Ma allora, io vorrei clonare me stesso, nel senso che proprio lei non si basta a se stesso, che ne vuole un altro. No, ma in realtà è proprio per i due principi che abbiamo detto che rendono la cosa pura fantascienza, nel senso che non posso clonare me stesso 36enne e comunque non posso clonare me stesso con la stessa esperienza di vita. Quindi clonerei me stesso per essere genitore di me stesso e magari insegnare qualche trucchettino politicamente scorretto per affrontare magari un po' meglio questo mondo, questa vita. Non ho mai pensato che esista una maniera lievemente più facile, anche possibile, che è ingravidare una persona e fare un figlio? Sì, in effetti potrebbe essere un'altra soluzione questa. No, sorponga, perché diciamo che dall'inizio della storia dell'umanità molti sono applicati in questa direzione e hanno ottenuto delle emanazioni abbastanza simili a se stesse, a cui potevano insegnare molto di quello che hanno appreso della vita. Io dico che molte volte le soluzioni semplici sono quelle più a portata di mano. Assolutamente, ma rimanendo nel campo della fantascienza, avrei avuto la possibilità di concedermi, diciamo così, una seconda vita, però con un tutore che mi conosceva meglio di chiunque altro, ecco. Guardi che anche i nostri figli riusciamo a conoscerli meglio degli altri, perché ci somigliano molto, ma quando crescono, nelle loro rappresentazioni, nel loro carattere, nel loro tic, in ciò che non ci dicono, le omissioni dei nostri figli sono le stesse nostre omissioni. È interessante, divertente, ci si applica, perché quello è possibile, certo, poi dopo i figli crescono e diventiamo noi materiale di scarto per i nostri figli, forse per il clone di se stesso non accadrebbe, potrebbe disinnestarlo, potrebbe eliminarlo, potrebbe chiuderlo in una cella frigorifera, potrebbe farci tante cose, con un figlio non si possono fare. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, l'ha già detto quell'altro signore, praticamente anch'io clonerei me stessa. No, questo è interessante, vedo molti propositi di autoclonazione. Ecco, cerchiamo di capire che perché. Lei prenderebbe una parte di sé, si taglierebbe una ciocca di capelli, la metterebbe nel calderone dello scienziato e vorrebbe vedere uscire dalla conchiglia come Venere un'altra se stessa, come si vorrebbe? Uguale, però gli farei fare praticamente le cose che io non ho fatto, che non ho portato a conclusione. Una ad esempio? Tipo balletto, ecco. Lei non ha più il fisico per cominciare adesso a fare il balletto? No. Praticamente quelle che iniziano da grandi le trovo un po' ridicole, almeno per il balletto classico. Però cioè non l'ho fatto da piccola, in quel senso lì, non me l'hanno fatto fare i miei genitori. Io infatti lo sto facendo fare a mia figlia, ecco. Quindi... Però avere un'altra me stessa le farei fare le cose che io non ho fatto, tipo continuare a suonare la chitarra, imparare le tastiere, tutte queste cose qua. Queste due cose, io capisco che il balletto richieda una forma fisica che in età adulta è più difficile avere, ma fino a suonare la chitarra e le tastiere penso che ancora potrebbe provarci, no? Sì, beh, sì, è vero. Cioè, sì, avere il tempo. Ma quindi il suo rimpianto è non avere il tempo per applicarsi alle cose piacevoli. Sì, quindi un altro se stesso... Se non si inizia da piccoli, poi è molto più difficile... Cioè vabbè, se uno ragiona così, signora, morirà soffocato e sepolto dai propri rimpianti. No, vabbè, non ho rimpianti nel senso che ho fatto altre cose, così, non è che... Vabbè, rimpianto. Mi piace sentirla così vivace, così... Due o tre linee da fargli fare le altre cose che non ho fatto. Vabbè, lei vorrebbe delle repliche di se stesso per vivere alcune vite parallele come tutti noi abbiamo. Grazie, Raffaella. Maurizio. Buongiorno. Lei chi vorrebbe clonare? Anche lei se stesso, no? No, io mia madre, perché per sdebitarmi di 11 figli, da piccola era molto agiata, ma poi i fratelli si sono venduti tutto e vedova, ho dovuto tirare su 11 figli in Calabria, io le dico in che condizioni, e non ha mai avuto niente, ma allora delle volte esprimeva, ecco, certi desideri che... E sacrificherei, gli dico la verità, la mia vita per poterla clonare. No, questo è interessante. Guardi, lei non è la prima persona che faccio parlare questa mattina, ma tanti che mi stanno scrivendo hanno questa sorta di desiderio di compensare i genitori per una vita che loro sentono piena di sacrifici e di rinunce, per ridare loro la possibilità di una seconda vita però più lieta, più tranquilla, nel suo caso senza gli 11 figli che gli vendono il patrimonio, forse. O magari 11 figli e magari qualche soldino in più, qualche possibilità. Lei pensa quando lei buscava, si dice, gli davano qualche soprassato o cosa, faceva 10 pezzetti e dato ne eravamo tutti nello stesso paese, conservava le cose e poi magari dopo un mese portava ognuno. E quando è morta abbiamo La fettina di soppressata dopo un mese? No, dico soppressata, no, il pezzo che è la cosa lì, oppure quando è morta abbiamo trovato i buoni fruttiferi, che l'unico pezzo di terra per vivere si è venduta, che era 1.100.000, e abbiamo trovato i buoni fruttiferi di 100.000 lire di quei tempi, ognuno col suo nome. Quindi nella esiguità di risorse comunque riusciva a pensare a tutti gli 11 figli. Va bene, l'auguro di continuare a coltivare questo suo sogno di gratitudine materna, che anche se non sarà possibile una realizzazione concreta, le farà bene senz'altro allo spirito. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti e l'appuntamento senza clonazioni per lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.